Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 14 marzo 2015. Sulle tracce di Leonardo lungo il Ticino. Il progetto è nato 3 anni fa e ora, in occasione di Expo 2015, trova la sua occasione di lancio. L'ente Parco del Ticino propone ai cittadini lombardi e ai visitatori, attesi da tutto il mondo, un percorso che permette di scoprire il genio di Leonardo nei luoghi in cui il grande inventore, pittore e architetto operò. Le campagne lombarde sono state infatti il teatro degli esperimenti leonardeschi. Oggi possono essere riscoperti lungo i percorsi bianchi del parco, dalla terrazza dove Da Vinci fece le prove sul volo umano fino alle rive del fiume dove l'artista toscano studiava le tecniche di palificazione, ma anche i caseifici dove si producono i formaggi che il primo pittore e meccanico di Sua Maestà Francesco I portò poi ad Amboise, sulle rive della Loira. Fin qui la notizia del 14 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto di un percorso leonardesco nelle parole di Milena Bertani, presidente del Parco del Ticino, al microfono di Laura Bettini. Leonardo ha vissuto qui 20 anni, è stato a Pavia, è stato a Vigevano. Abbiamo trovato scritti dove lui racconta i cercatori d'oro del Ticino, dove lui racconta come si palificava nel Ticino. Sappiamo anche che lui ha portato, quando poi è stato alla corte di Amboise, le modalità di coltivazione della vite del Ticino, e da lì è nato anche il famoso vino della Borgogna. Sappiamo anche che qui c'erano le mozzarelle di bufala e che i formaggi di Vigevano venivano portati in Francia perché alla corte francese piacevano moltissimo. Allora ci piacerebbe riscoprire la figura di Leonardo nelle sue varie complessità e articolazioni. Ci piacerebbe leggere il trattato della pittura per vedere se quella natura lui l'ha osservata qui, e quindi riproporre il trattato della natura ancora nei nostri posti come luogo e simbolo, tra realtà e leggenda. Ma c'è una cosa che ci piacerebbe anche raccontare. Questa appartiene alla leggenda. Si dice che quando Leonardo osservava gli uccelli per il volo, abbia fatto le prime sperimentazioni del volo umano prendendo un terrazzo del Ticino ad Orre d'Isola e quindi buttando degli esseri umani dal Ticino. Quel terrazzo c'è, esiste ancora, e noi vorremmo anche riproporre questa parte immaginaria legata a Leonardo proprio per raccontare un parco a tutto campo che fa tantissime cose. C'è uno studio già consolidato, sappiamo anche che esistono tutti gli esperti scientifici che possono aiutarci a concretizzare questa nostra idea. C'è tutto, basta semplicemente creare un sistema e mettere in rete tutto quello che c'è. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.